Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Quando ti è nata questa idea? Mi è nata qualche giorno fa, perché era tempo che pensavo di farlo e poi ho detto: così è l'occasione giusta, mi faccio questo regalo. C'è tutta la tua famiglia? Come l'ho chiesto, si sono emozionati, per cui loro mi hanno dato l'idea di aver fatto la cosa giusta. La speranza comunque di aver così regalato una speranza a tanti ragazzi, a tanti giovani, a tante persone. Ha deciso di trascorrere il suo 50° compleanno tra Amatrice e Norcia, terre martoriate dal terremoto, per portare qualche ora di gioia e alleviare la sofferenza di quello spicchio di Italia che dopo il terremoto della scorsa estate e dell'autunno prova con fatica ed orgoglio a ripartire. Così Roberto Baggio, il divincodino del calcio italiano, lo ricorderete qualche mese fa, a testimoniare che quella rinascita in quelle terre violentate dal sisma passa anche attraverso lo sport. Una piccola grande storia, e che arriva proprio da quelle terre, ci chiedono oggi di raccontarvi gli dei dello sport, qui nell'ultima puntata stagionale di Olimpia, che pure con il meglio di quest'annata continuerà a farvi compagnia anche durante l'estate. Proprio oggi è stato inaugurato, infatti, in una frazione di Amatrice, chiamata Sky, un campo di calcetto realizzato con la donazione del Lucei, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e che è il primo impianto sportivo, di fatto, che torna a disposizione delle popolazioni terremotate. Ne parliamo subito con la nostra prima ospite, Franca Formigini Anav, la consigliera del Lucei, che ha seguito direttamente il progetto. Buonasera e benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a lei, la ringrazio. Dottoressa Anav, com'è nato questo progetto? Allora, noi subito dopo il sisma, parliamo di agosto, quindi era intorno alla metà di settembre, una delegazione Unione e Comunità Ebraica di Roma siamo andati a Sky a portare la nostra solidarietà. Abbiamo visitato proprio il campo di emergenza, che in realtà è l'attuale campo, e abbiamo conosciuto la popolazione, abbiamo parlato con loro ed abbiamo rappresentato la nostra disponibilità a realizzare qualche cosa che potesse rimanere nel tempo per dare un supporto, per dare solidarietà. E ci siamo attivati, insomma, con il sindaco Pirozzi e tutto il suo staff per procedere a questa riqualificazione. Campo di calcetto che arriva in un luogo simbolo dell'Italia che vuole rinascere da quel terremoto, vero? Assolutamente. Beh, Sky è la frazione più popolosa di Amatrice, in realtà. È abbastanza grande come frazione, e proprio perché lo sport è così un veicolo di condivisione di valori, abbiamo pensato di regalare un luogo di svago dove i ragazzi, le famiglie possano trovare un attimo di convivialità, di incontro e ripartire. Avete altri progetti ora da mettere in campo, sempre in collaborazione con Amatrice o altri comuni colpiti dal sisma? Ma diciamo che con la nostra Run for Mem di 27 di gennaio, insomma, abbiamo dato il là per vedere e ricordare in modo diverso, cioè un ricordo pensando però al futuro e come deve essere affrontata la vita. Anche in questa occasione noi vogliamo lanciare questo messaggio, cioè sorridiamo alla vita, affrontiamo il futuro in maniera diversa. Quindi con questo spirito stiamo vagliando altre iniziative per insomma proiettare la nostra attività sempre in maniera positiva. Franca Formigini Anav, consigliera dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, grazie per essere stata questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport. Vi ringrazio tantissimo, un saluto a tutti, il nostro cuore da Amatrice. E a questo punto a Olimpia non poteva mancare quell'allenatore di calcio, perché allenatore di calcio è, non dimentichiamolo, che è diventato suo malgrado il simbolo di Amatrice che lotta per rinascere anche attraverso la sua voglia di sport. Grazie per essere ospite di Olimpia questa sera, Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice. Salve, buonasera. Allora, sindaco, qualche sorriso in quest'anno tribolato ad Amatrice è arrivato proprio dallo sport e in particolare dal calcio. Arriva adesso questo campo di calcetto realizzato nella frazione di Sky con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Direi un piccolo, ma anche grande e significativo passo verso la rinascita, no? Sì, no, ma perché lo sport poi è un momento di aggregazione. Ringrazio di cuore chi ha contribuito alla realizzazione di questo impianto. Diventa il primo fruibile dopo il 24 agosto, per cui ha un alto valore simbolico, ancora maggior valore ha avuto perché è stato realizzato in una delle 69 frazioni di Amatrice. Il calcio ha portato diversi segnali importanti in quest'anno tribolato, dicevamo, sindaco, in un anno in cui l'Amatrice, quasi veramente a simboleggiare la voglia di rinascere, di tornare in alto, ha conquistato questa preziosa promozione in seconda categoria. Niente male. No, ma lui già si era vinto il campionato al momento che era ripartito la squadra. Io considero quello un momento clou. Poi il calcio è stato vicino con le tifoserie, perché qui a brevissimo avremo altri due impianti sportivi nelle aree SAE di Colle Magrone, realizzati dagli ultra di tutta Italia. C'è stato un contributo fattivo di tante società di calcio: l'Ascoli, l'Atalanta, la Roma, il Pisa, la Salernitana, il mondo delle tifoserie della Sampdoria, Genova, ma tantissime. Per cui abbiamo avuto la solidarietà incredibile da parte del mondo dello sport, e la nostra idea è che l'Amatrice del futuro, e ci stiamo lavorando, dovrà diventare una città a misura di sport, perché abbiamo una configurazione morfologica e geografica che si adatta allo sport. Stiamo a 1000 metri, per cui partiranno anche a breve adesso i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport. La federazione si è impegnata formalmente col presidente D'Avecchio a ripristinare il campo da calcio che, ahimè, anzi per fortuna, è servito nella fase emergenziale per dare supporto alla nostra gente, e poi è diventato un luogo dove c'era la mensa. C'è la costruzione della nuova palestra nel nuovo plesso scolastico, c'è la realizzazione di un campo polivalente all'interno di questa nuova scuola da parte della Roma, c'è la costruzione di un campo da tennis da parte di Selva Sildren, e la realizzazione di un parco per l'educazione motoria da 0 a 6 anni, questo proprio dall'Ascoli Calcio. Per cui lo sport serve, aiuta, e sicuramente un domani potrà diventare anche una forma di sviluppo turistico con delle ricadute importanti nel mondo dell'economia. Senza dimenticare che stiamo parlando col miglior allenatore di calcio italiano di questa stagione, perché a lei è stata attribuita simbolicamente la panchina d'oro da parte di tutti gli altri allenatori del calcio professionistico, un regalo non tanto per lei che è appassionato e allenatore anche di calcio, ma direi proprio per la vostra comunità, no? Un segno di attenzione bello. No, ma l'ho atteso così, poi per 24 anni ho sempre fatto questo. Proprio qualche giorno fa ho rinunciato a un'allettante proposta dal mondo della Lega Pro, però ancora non c'è la tenuta psicologica e la concentrazione giusta per ributtarsi a capofitto in un lavoro impegnativo come quello là dell'allenatore, insomma, per cui cerchiamo un attimino di risolvere quello che possiamo risolvere, di ripristinare il più possibile la situazione di vivibilità, recuperando quegli spazi che ti stavo dicendo prima, che sono fondamentali per l'aggregazione, e poi torneremo sui campi verdi, perché è lì che è la mia vita. Forse il giorno più bello sotto questo punto di vista è stato quello della visita di Roberto Baggio in occasione dei suoi 50 anni, no? Sì, un momento importante, ma come tanti, guarda. Io ho conosciuto persone straordinarie, il mondo della solidarietà in genere, poi ecco, ha fatto piacere che il mondo dello sport si è unito intorno a noi, e questo sicuramente anche, permettimelo di dire per la prima volta che lo dico, forse perché qualche cosa di buono nella mia carriera e nei miei comportamenti l'ho fatto in 24 anni al di là del premio La Panchina d'Oro. Senta, qua la Lega Pro che la chiama, ci dia qualche indizio in più però? Chi è che Vabbè, ma ormai ho detto di no, punto, dai, adesso fa il giornalista, vuoi fare lo scoop, ma non te lo faccio. Guardiamoci la giornata di oggi a Sky, poi insomma tra un po' io mi auguro di poter ritornare a coltivare la mia passione, che è quello oltre che un lavoro, ma di riprendere a vincere, dai. Beh, insomma, direi che la grinta già c'è tutta. Sindaco Pirozzi, in bocca al lupo per tutto quello, grazie, che state facendo ad Amatrice, anche per questo campo di calcetto e anche per la carriera che spero prestissimo ritornerà alla grande. Grazie, grazie, grazie mille, buona serata. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Auli. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Olimpia, miti e verità dello sport. È stata un'esperienza incredibile. Mi sono ritrovato qui in una partita di rugby tra quelli che alla fine posso considerare anche amici. È stata una bella partita, ci siamo divertiti tutti e penso che questi ragazzi avranno un grande futuro. Il gruppo che si è creato qui e che sono riuscito a vedere durante questo allenamento mi ha fatto capire che anche in condizioni difficili basta creare un gruppo, avere un sostegno che si risolvono molte cose. Ragazzi delle Tre Rose, sono venuto qui a Casale Monferrato per voi, sappiate che sono il vostro primo sostenitore. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. 1, 2, 3. Il messaggio è quello lanciato da Maxime Mbanda, flanker della Nazionale Azzurra e delle Zebre Rugby di origine congolese, alle Tre Rose Rugby di Casale Monferrato, il team con cui si è allenato per un intero pomeriggio. Squadra davvero speciale nel panorama del rugby italiano e non solo questa, perché le Tre Rose è costituita in larga parte da giovani rifugiati, ospiti di cooperative sociali delle province di Alessandria ed Asti. Ragazzi che arrivano da 12 diversi paesi, dal Togo al Senegal al Sudan fino a Romania e Albania, tanto che ad essere chiamato lo straniero è il capitano, l'italianissimo Fabio Liffredi. Un piccolo grande miracolo quello delle Tre Rose Rugby che va avanti dal 2010 e che si è meritato anche l'attenzione del cinema, della TV e dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Ispiratore del miracolo delle Tre Rose è un 54enne ex carabiniere, operatore delle comunità salesiane e presidente di questa squadra, di questa polisportiva tanto speciale. Paolo Pensa, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera, buonasera allo studio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Presidente, direi un piccolo grande miracolo è quello che sta portando in meta le Tre Rose di Rosignano Monferrato, perché Rosignano è la cittadina in cui la società nasce, anche se attualmente ora si è ormai trasferita e si allena la squadra a Casale Monferrato. Ecco presidente, direi un piccolo grande miracolo quello che siete riusciti a fare in queste stagioni. Sì, direi un piccolo grande miracolo. Non so se è merito nostro oppure è il destino delle cose che doveva andare così. Abbiamo avuto l'intuizione, però abbiamo avuto anche la risposta dei ragazzi, abbiamo avuto la risposta in primis della cooperativa Senape e poi delle altre cooperative che collaborano con noi, che sono la Casa di Elisa, Kaizen Coop, Verso Probo e più altre che si aggiungeranno. Ho avuto la risposta positiva dei ragazzi che quando sono andati a chiamarli nella mentre erano a scuola di italiano. Siete una vera e propria Babele del rugby, perché questi ragazzi arrivano un po' da tutto il mondo, no? Sì, allora sono, se non vado errato, 14 o 16 stati solo africani, più abbiamo rappresentato la Romania, l'Albania, l'Argentina, chiaramente l'Italia e tutto il mondo. Diciamo che questo è bello, è proprio, ed è proprio vero che lo sport, come diceva Nelson Mandela, ride in faccia alle discriminazioni, a tutto quello che è, che si fa contro al voler stare insieme. E riuscì a far andare d'accordo bianchi e neri grazie proprio a questo sport. Ecco, abituati ai presidenti classici che in giacca e cravatta fanno gran riunioni strategiche, bisogna dire che presiedere le Tre Rose è un po' diverso. Se non sbaglio, lei è anche autista del pulmino e ogni tanto si fa il giro di tutti i paesini del vicinato per raccogliere i ragazzi e portarli agli allenamenti settimanali. Sì, esatto. Sì. Non sono presidente. Sono presidente, nel senso che ho fondato questa realtà, la porto avanti, però chiaramente maggior parte delle volte vado a prendere i ragazzi e poi se c'è da pulire gli spogliatoi li puliamo, senza nessun problema. Spogliatoi che sono un po' il vostro campo base, no? Perché è anche l'occasione per socializzare, per fare un po' gruppo. Sì, esatto. Lì dentro arriva proprio, ci riuniamo lì, ecco, c'è un piccolo locale che grazie al signor Giuseppino Coppo, presidente del Casale Calcio di maggioranza, siamo riusciti ad averlo dalla Protezione Civile di Novi Ligure, e lì comunque il campo, gli spogliatori sono la nostra base. Direi che un grosso aiuto l'ha dato anche la Federrugby, no? in questo progetto, consentendovi delle deroghe funzionali al vostro obiettivo. Sì, questo bisogna riconoscerlo. Anche la Federazione Italiana Rugby, con il suo presidente Gavazzi, con tutto il direttivo loro, sono riusciti a capire l'importanza, e grazie a loro abbiamo avuto queste deroghe che non so se con altri sport saremmo riusciti ad avere. Invece la pallovala, il rugby si è dimostrato proprio ancora una volta un esempio proprio di sportività a servizio proprio dei cittadini, delle persone, della crescita. E d'altronde mi ricordo sempre un spettatore usciva dallo stadio di Torino dopo la partita nazionale, che disse: il rugby è lo sport più sportivo che c'è, e in questo caso si è confermato. Devo dire proprio grazie a queste deroghe, anche perché io ho presentato una squadra senza un tesserato, quindi insomma anche con 22 stranieri. Sì, è stata un po' una scommessa, ma alla fine è una scommessa che è vinta, e va bene così. Senta, ma adesso va bene che il rugby ha quest'aura di buonismo, il terzo tempo, eccetera, eccetera, ma non ci vorrà far credere che non c'è mai stato un insulto razzista verso i suoi ragazzi? No, direi che io insulti razzisti verso i ragazzi no. Abbiamo però avuto dei fatti spiacevoli, come hanno vandalizzato, distrutto, ignoti, il nostro pulmino che era parcheggiato lì ormai da un anno di fianco al campo. Quindi questo sì, non è che poi non ho mai saputo chi è stato, però questo l'abbiamo subito. D'altro canto però la cittadinanza si è subito attivata e abbiamo potuto comprarcene subito un altro, e pensate che anche i ragazzi dell'Istituto Superiore Balbo, spinti dal loro preside, hanno fatto una raccolta fondi per il nostro pulmino. Quindi chiaramente ci sono sempre dei nei, però per ora sono piccoli circoscritti. Tante storie immagino su quel campo e attorno a quella palla ovale, ce ne sintetizzi una finita bene, perché poi il partecipare all'attività delle Tre Rose costituisce anche un curriculum per questi ragazzi, ed è anche importante nell'ottica della richiesta del riconoscimento della cittadinanza o dello status di rifugiato, no? Sì, esatto. Una finita bene è quella di Abaca Frank, che ha avuto un primo diniego dalla commissione prefettizia, ricorso in tribunale. Il tribunale di Torino gli ha riconosciuto lo status proprio di rifugiato, e in una delle motivazioni era proprio la sua partecipazione alla nostra squadra in questo sforzo di integrazione. Quindi proprio mi è stata riconosciuta questa, per noi è una grande vittoria. Che venga riconosciuto questo progetto di integrazione anche a livello così delle istituzioni. Presidente, pensa alla prossima meta da raggiungere con le Tre Rose? Beh, guardi, per adesso abbiamo già raggiunto una seconda meta, ovvero noi abbiamo avuto queste tre deroghe, loro possono giocare tutti da noi in deroga di formazione straniera. La prima meta è già, la seconda meta raggiunta, il fatto che se loro vengono acquistati, in parola grossa, comunque passaggio un'altra squadra, e spero per loro, diciamo superiore, diventano di formazione italiana, passano un'altra squadra, quindi una buona opportunità di miglioramento per loro, per la loro vita. E l'ultima meta da raggiungere è che se la nostra squadra riuscirà mai un giorno a vincere il campionato, posso salire di categoria, cosa che adesso gli è preclusa. Beh, allora, Paolo Pensa, presidente delle Tre Rose di Rosignano Monferrato, Casale Monferrato, intanto complimenti per il piccolo grande miracolo ovale che avete portato a termine e che state sviluppando, e allora in bocca al lupo per la promozione, speriamo imminente, presidente. Questa è la speranza nostra. Io ringrazio tutti, ringrazio tutta l'attenzione che hanno i nostri ragazzi, a cui questo fa bene, fa molto bene, oltre che fa piacere, fa molto bene. E sì, speriamo, ma io sono fiducioso e sono ottimista, quindi perché no? E grazie, presidente, per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie ancora a voi, e ancora una buona sera a tutti.